Benvenuti a Dedicato! Questa settimana vi raccontiamo cosa è successo a Eufonica 2025. Eufonica è un appuntamento ormai importante per la città, ma veramente anche per tutti quelli che si approcciano al mondo della musica da qualunque punto di vista, quindi quello didattico, educativo, formativo, ma anche ai musicisti che in pratica tutti i giorni vivono di musica e giocano con la musica, perché non tutti sono professionisti, ma in molti sono musicisti. Quindi noi siamo andati a Eufonica come ogni anno, perché Dedicato con i suoi laboratori ha una collaborazione, oserei dire, stabile con Eufonica, e siamo nati insieme a Eufonica nella prima edizione di Palazzo Renzo di 3 anni fa. Poi l'anno scorso presso Bologna Fiere Group c'è stata un'edizione, diciamo, di passaggio e di grande crescita, e poi quest'anno si sono create delle sinergie e delle collaborazioni veramente molto importanti, perché insieme a Eufonica c'è stato il Guitar Show e il MEI presentissimo con ospiti, dibattiti, talk. Quindi noi abbiamo ovviamente guardato, osservato e ascoltato tutto quello che è successo a Eufonica nelle 2 giornate del 10 e 11 maggio 2025, e poi abbiamo documentato alcuni dei momenti, perché documentarli tutti era impossibile, perché veramente c'erano tantissime cose molto interessanti. Quindi iniziamo adesso ad ascoltare una voce veramente importante di Eufonica, che è Barbara Laurini. E poi continuiamo il nostro viaggio, perché veramente ci sono ospiti eccezionali. Siamo a Eufonica 2025 e siamo con la mente creativa di Eufonica, con Barbara Laurini di Bologna Fiere Group, che al suo terzo anno ha fatto crescere Eufonica in maniera eccezionale. Devo dire che quest'anno abbiamo delle collaborazioni veramente molto belle. Ci racconti un po', Barbara, come si è evoluta la situazione? Sì, intanto grazie per l'intervista. Allora, quest'anno devo dire la verità che in effetti con l'arrivo del Guitar Show e la collaborazione del MEI, a questo punto copriamo veramente tutto il settore della musica, dalla produzione degli strumenti musicali alla formazione con Indire, quindi che forma tutti i docenti e aggiorna tutti i docenti sulle buone pratiche didattiche, al MEI che ci porta verso i talenti sul palcoscenico e i primi approcci col pubblico. Quindi siamo felicissimi, perché così insomma copriamo tutta l'arco della professionalizzazione nell'ambito musicale. Assolutamente, che è quello che poi Eufonica si era prefissato fin dal primo anno, e quindi il coinvolgimento di tutto quello che è il settore musicale in Italia, no? Dall'inizio del percorso fino allo sviluppo. Poi ho intervistato prima dei ragazzi che mi dicevano: quando saremo famosi? E allora il quando saremo famosi adesso arriva anche a Eufonica. Esattamente, esattamente. Infatti le 2 giornate di quest'anno, erano il 10 e 11 maggio, si sono svolte dalla mattina alle 10, ospitando le orchestre delle scuole con gli studenti di musica, e terminando alla sera con i concerti dei grandi big portati dal MEI. Quindi ieri sera abbiamo suonato in Piazza Aldo Moro fino all'1 di notte, partendo con Statuto, Godano e tutta la Guitar Show Night, e quindi insomma un bel palcoscenico caldo, diciamo così. Fantastico. Allora, ci risentiamo per Eufonica 2026. Sì, assolutamente. Mi stavo dimenticando di dire che quest'anno abbiamo aperto anche al settore della liuteria, quindi all'artigianato e all'editoria musicale. Quindi abbiamo qui una rappresentanza dei liutai, soprattutto dell'Emilia Romagna, ma non solo, e con tutti i panel e i convegni dedicati all'artigianato e all'editoria musicale. Quindi abbiamo completato proprio 360 gradi. Esatto. Grazie. Ciao Barbara, grazie. La parola d'onore e sapore nei denti, ma due occhi vanenti, pedali d'orchidea. Serenata, che mi resta di te, della tua poesia, mentre l'ombra del sonno lenta scivola via. Siamo con Giordano San Giorgi, che è un personaggio importantissimo del panorama musicale italiano, perché è presidente di MEI, quindi direi che più di così non potevamo chiedere. Giordano, ciao, benvenuto. Ciao, grazie a voi per l'ospitalità, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, noi ti chiediamo oggi intanto come è nata questa collaborazione con Eufonica e poi insomma cosa è successo in queste giornate, ma soprattutto anche l'impegno e l'appuntamento che c'è per ottobre con i MEI e quindi quello che succederà quest'anno nel 2025. Raccontaci un pochettino. Beh, intanto esatto, quest'anno celebriamo i 30 anni di questa manifestazione nata così abbastanza in modo intuitivo, che in realtà continua a rappresentare un punto fondamentale di una piattaforma della nuova scena musicale italiana indipendente ed emergente. 30 anni sono un momento importante, e quindi con Eufonica e il Guitar Show ci siamo ritrovati per condividere un progetto comune insieme di percorso che ci porti entro 2-3 anni a fare della Fiera di Bologna un polo del Made in Italy musicale, di cui c'è un grande bisogno in un'era della globalizzazione in cui si cerca di asfaltare le identità nazionali e territoriali, e farne un punto di riferimento di tutta la nuova scena musicale e di tutta la filiera del settore musicale. Credo che con questa prima edizione di questa collaborazione, con le ricchissime presenze di pubblico della giornata di ieri e quelle di oggi che si stanno confermando, ci sia un'eccellente base per proseguire questo progetto e far diventare Bologna il centro della musica del nostro paese. E quindi con grande soddisfazione ieri abbiamo fatto e seguito diversi convegni, fra i quali uno seguitissimo è stato quello sul futuro delle piccole realtà musicali con il professor Taormina, che ci ha dato dei dati interessanti sul settore, e ce n'è stato un altrettanto interessante con il premio Tenco, che proseguirà anche oggi, sul rapporto della musica d'autore col mercato e la scuola. Così come abbiamo raccontato una storia della musica indipendente a livello internazionale e nazionale grazie all'uscita di un libro di Massimo Padalino, curato da Ezio Guaitamacchi, che ha fatto questo libro fondamentale. Insieme a loro ci sono stati commenti di Cristiano Godano, leader dei Marlene Kunz, di Galoni e di altri artisti che sono intervenuti ai nostri talk in modo veramente importante e significativo. Grande serata finale ieri sera in Piazzale Aldo Moro, con Cristiano Godano dal vivo col suo ultimo disco, gli Statuto con il loro Football Club Tour, veramente bello, originale e interessante, e una Guitar Show Night che ha visto sul palco i migliori chitarristi italiani e internazionali. Oggi ovviamente con Frida Bollani Magoni e altri convegni legati alla musica d'autore, e un focus anche sul liscio, perché abbiamo fatto questo progetto di portare le nuove generazioni ad approcciarsi al liscio, proseguiamo fino al finale stasera al Bravo Caffè con Santa Valera, che è l'orchestra della generazione Z del liscio. Mentre invece per il futuro stiamo lavorando ai 30 anni del MEI dal 3 al 5 ottobre a Faenza, stiamo preparando la programmazione che uscirà ovviamente a giugno. L'anticipazione che posso fare è che daremo un importante premio alla carriera il 3 ottobre in teatro, al Teatro Masini a Faenza, a un artista che secondo noi ha segnato profondamente una carriera autonoma e indipendente, ed è la voce straordinaria di Antonella Ruggero, che ha scelto invece del facile successo commerciale una carriera di approfondimento di percorsi culturali nell'ambito della musica, cogliendo anche con la sua voce terreni inesplorati, che ce l'hanno fatta anche vedere poco tempo fa su Rai 1 in un bellissimo percorso documentario di Alberto Angela con la sua straordinaria voce da Roma. Grazie, noi siamo grandi sostenitori della musica indipendente e del MEI, perché veramente è importantissimo il lavoro che fate, quindi ci rivediamo sicuramente a ottobre. Grazie Giordano. Niente, grazie a voi per aver dato voce a questi due giorni importanti, che secondo me nel tempo farà di Bologna il centro nazionale dell'innovazione musicale del nostro paese, e dall'altro Faenza, che continua ad essere, ci sono arrivate già più di 500 richieste per poter suonare al MEI, e siamo solo a maggio, ci mancano ancora altri 4 mesi. L'anno scorso se ne arrivarono 700, penso che quest'anno supereremo, perché ovviamente l'effetto Lucio Corsi, noi abbiamo premiato Lucio Corsi l'anno scorso come miglior artista indipendente dell'anno quando era sconosciuto, l'effetto Lucio Corsi ovviamente nelle nuove generazioni si fa sentire, e vedono quindi nel MEI una piattaforma per i giovani emergenti importante, che magari porta anche fortuna. Certo, grazie, ciao. Grazie a voi. Prima di Giordano San Giorgi abbiamo ascoltato la meravigliosa voce di Antonella Ruggero, che appunto, come anche Giordano ci ha detto, verrà premiata quest'anno al MEI nel mese di ottobre 2025 a Faenza, quindi insomma grandi novità ed evoluzioni nel MEI, e anche per Antonella Ruggero, che merita il premio direi al 100%. Quindi grande Antonella, fantastica come sempre, una voce pazzesca. E andiamo ad ascoltare adesso un'altra voce veramente interessante, giovanissima, che è Frida Bollani Magoni, che abbiamo avuto occasione di incontrare a Eufonica. Abbiamo fatto una chiacchierata con lei e con il percussionista Mark Glenworth, che lavora con lei ed è in tour già da qualche mese insieme, in uno spettacolo veramente molto interessante sia a livello musicale sia di suoni, proprio è una proposta veramente molto bella. Consiglio a tutti di andarli ad ascoltare se li riuscite a trovare in giro per l'Italia in tour. E adesso ascoltiamo Frida Bollani con il suo brano The Colors of the Music. The color of music is so red, so light. siamo qui con Frida Bollani e con il suo collega percussionista, che adesso ci presenta e ci raccontano che cosa fanno oggi sul palco su questo meraviglioso progetto che è Eufonica qui a Bologna. Ciao Frida! Ciao, sì, io sono Frida e con me c'è Mark. Ciao, io sono Mark. Ciao Mark, ciao Frida. Direttamente dall'Inghilterra, lui parla poco italiano, ma posso tradurre. Esatto, noi oggi porteremo una piccola parte del nostro progetto che si chiama semplicemente Frida, con cui siamo in tour da marzo e fino a sicuramente settembre-ottobre. Quindi suoneremo insieme sul palco. Mark è un percussionista, suona il vibrafono, ci sarà tanta elettronica, chiaramente il pianoforte e la mia voce. Ed ecco, non vediamo l'ora perché oggi c'è una carica un po' rock and roll. Va bene. Ci piace questa energia, sì. Come nasce questo vostro progetto insieme? Questo progetto insieme, allora, nasce dal fatto che io sono 5 anni che vado in tournée da sola, piano e voce. E ho deciso di portare un po' di cambiamento e, avendo conosciuto Mark a Londra, ho deciso di portarlo sul palco in Italia con me, perché avevamo iniziato appunto a fare dei concerti o comunque delle prove vibrafono, pianoforte e voci, perché anche Mark canta e scrive, e quindi scrivendo canzoni insieme e suonando già insieme, vedendo come il piano e il vibrafono stanno bene insieme, ci è venuta voglia di portare questo spettacolo anche in Italia e di fare proprio una vera e propria tournée. E ovviamente non potremmo farlo senza i nostri tecnici e il nostro gruppo di lavoro dietro, che è fantastico. E ecco, oggi siamo molto contenti e oggi anche noi c'è tanta carica per questa esibizione, perché ci piace questo palco. Cioè, quando abbiamo fatto il soundcheck, io con i bassi mi sono gasata tantissimo. A me piacciono le frequenze basse e questo impianto fa veramente paura, è incredibile. Gli amplificatori che useremo oggi sono una cosa incredibile, quindi sì, non vediamo l'ora. Bene, bene. Tu sei figlia d'arte, giovanissima, sì, musicista, quindi sicuramente hai vissuto di musica un po' tutta la tua vita. Ti capisco, perché sono figlia d'arte anch'io e ho avuto le percussioni nelle orecchie per tutta la vita. Tu invece sei approdata a pianoforte e voce. Ti è venuto naturale questo tuo percorso? Assolutamente, sì, da quando sono nata. Ho iniziato prima come pianista e poi anche con la voce, e questi sono due strumenti che vanno molto bene insieme e ho la possibilità di accompagnarmi anche, quindi sì. Perfetto, io vorrei chiedere anche a Mark, sì, lo chiediamo assieme, il suo percorso invece, da dove arriva? Yes, I started, I was quite a late starter, started when I was 13 playing percussion. Ha iniziato a suonare le percussioni a 13 anni? And I played at first with brass bands, with my percussion teacher, and I progressed quite quickly, and I went to music college, Royal Northern College of Music in Manchester. Ha suonato con delle bande di fiati e poi è andato al music college, al Royal Northern. Era il più giovane in questo music college a Manchester, which became quite a well-known place for percussion. In fact, that is where Gilbert Webster was the percussion tutor, and I end up dedicating the vibraphone piece that I wrote to him, Cobbler's for Gilbert, because his favorite instrument was the vibraphone. E Mark ha scritto questo, in quel periodo ha scritto questa composizione che è diventata la più famosa tra le composizioni di percussione solista, che si chiama Blues for Gilbert, dedicata al suo insegnante Gilbert Webster, il cui strumento preferito era il vibrafono, e quindi questa composizione infatti è per vibrafono solista. Una composizione meravigliosa, wonderful, beautiful, repertorio per noi percussionisti, lui lo sa benissimo e ti ringraziamo, thank you for your music. Grazie. Bene, vi veniamo ad ascoltare sul palco. A dopo. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao. Thank you. ecco un estratto del brano Blues for Gilbert di Mark Glentworth, che per noi percussionisti è veramente colonna portante, sia il brano sia lui, ma il brano è un brano appunto di repertorio che i percussionisti portano all'esame di diploma solitamente, quindi insomma neanche troppo facile, come dire, ed è un brano per vibrafono. Questo era un estratto suonato da lui, quindi insomma direi veramente grazie, cioè non posso dire altro da percussionista, posso dire solo grazie. Che poi non è vero, posso dire anche un'altra cosa, che quando mi sono resa conto di chi suonava a Eufonica con Frida Bollani e quindi chi avrei poi intervistato, mi sono tremate le mani come una bambina, quindi posso dire questa cosa, mi sono molto emozionata e sono veramente felicissima non solo di averlo conosciuto e di averlo sentito suonare in live, ma di aver parlato con lui anche di alcune indicazioni tecniche musicali non da poco, ecco, quindi veramente emozione e batticuore. Frida Bollani Magoni con la sua interpretazione di Via con me, veramente pazzesca. Avevo dei bambini accanto che mi hanno guardata e tra di loro commentavano dicendo: ma come fa a fare queste cose con la voce? Un bambino ha detto: sembra un'armonica, un altro: no, sembra un violino. E in realtà era la sua voce, quindi Frida, fantastica, veramente grazie, grazie anche per l'intervista e per aver chiacchierato con noi. E grazie per la tua musica. Un saluto a tutti gli ospiti di questa puntata, siamo addirittura d'arrivo ormai verso la fine, quindi ringraziamo tutti e salutiamo i nostri ospiti. Ci risentiamo la settimana prossima alle 13, sempre sulla Radio Città Fujiko con Dedicato. Ciao! Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio, e comunque non per questo, non ce la fa più. A chi ha lavorato, troppo sole va sempre più giù.